giovane donna ha messo al mondo un figlio nel bidone della spazzatura. Ed è morto un profugo dal freddo nella metropoli del sole. Questa è una canzone che non vuole né un titolo né un nome. Nata sotto a un fiore, l'ho trovata ibernata dentro al sole. La mia mano al vento la disciolse da quel magico incantesimo. Vorrei raccontare la sua storia, ma non ho le sue parole. E spesi tutto quanto per capire la sua storia, ma l'alba si confonde con l'aurora. E spesi tutto quanto per capire la sua storia, ma il freddo mi congela ogni parola. Sembra un pedalino e strizzo il mio pianto ogni sera sul lavandino. Il barone rosso si sarebbe già da molto suicidato e Valentino Bloi ci avrebbe già da molto rinunciato. E spesi tutto quanto per capire la sua storia, ma l'alba si confonde con l'aurora. E spesi tutto quanto per capire la sua storia, ma il freddo mi congela ogni parola. Per il compleanno ho ricevuto un sommergibile semiaperto, quello che mancava era in mare per una mancata immersione. E con una moto ho lasciato molti gatti senza pelo ed ho ucciso un gangster del Cine ad una messa sepolcrale. E spesi tutto quanto per capire la sua storia, ma l'alba si confonde con l'aurora. E spesi tutto quanto per capire la sua storia, ma il freddo mi congela ogni parola. E spesi tutto quanto per capire la sua storia, ma l'alba si confonde con l'aurora. E spesi tutto quanto per capire la sua storia, ma il freddo mi congela ogni parola.